Buonasera a tutti, su un'altra radio stasera proponiamo circuiti aperti. Che figata questa sera ragazzi, che figata. Nel frattempo qui nei nostri studi Mr. Cogot sono arrivati i nostri amici e questa sera parleremo, come dicevamo prima, del progressive. Perché è un genere che a noi ci intricca parecchio. Perfetto, allora salutiamo qui con noi Matteo e Michele di... Circuiti aperti. Stasera qui con noi per l'episodio numero 2 di un'altra intervista. In questa intervista faremo sicuramente un podcast che poi metteremo sul nostro blog. Allora, penso che noi in questo istante siamo arrivati alla fatidica domanda che chiude la puntata, che non ha né una risposta né una domanda, cioè quella di farvi una domanda e darvi una risposta. A posto. Un'altra intervista. Un'altra Radio Roma. Eccezionale. Io direi veramente eccezionale. Un'altra intervista. Un'altra Radio Roma. Nella carbonara ce la mette la cipolla sotto licenza Creative Commons. Un'altra intervista. Un altro modo di domandare. Un'altra intervista. Per sapere di tutto. Un'altra intervista. Per parlare su tutto. Su tutto. Su un'altra Radio Roma. Importante. Un'altra intervista. Su un'altra Radio Roma. Importante. La musica Creative Commons non è smessa. E basta. Allora, eccoci rientrati nello studio dell'altra Radio Roma e siamo qui con i nostri amici dei Circuiti Aperti, un progetto molto interessante, ve lo posso assicurare, perché li abbiamo prima sentiti su disco e poi successivamente abbiamo detto vediamo un po' se siete capaci di fare dal vivo quello che abbiamo sentito, e vi posso assicurare che gli viene anche meglio. Allora gli abbiamo detto va bene, chiediamo scusa e venite a essere torchiati dalle nostre domande. Volete salutare i vostri fans? Ciao ragazzi, sono Matteo, ci siamo i Circuiti Aperti, qui accanto c'è il mio compagno di una vita musicale Michele De Luca, buonasera. Buonasera a tutti, siamo qui per, insieme a questi amici di Un'altra Radio Roma, contenti insomma di far parte di questo movimento musicale libero, perché è la libera espressione che conta di più secondo noi, secondo tutti questi amici e componenti. Più che altro per noi è importante vivere questi momenti insieme a gente che si sente libera di ascoltare un po' di tutto, ecco, questo è importantissimo. Questo è già un buon punto di partenza. Allora, Circuiti Aperti, siete voi due più, che non stanno qui stasera, ma più diciamo... il tastierista Enrico Lupo e il bassista Filippo Argenti. Esatto, loro sono quattro e sembra che sul palco avete una band di 40 persone. Sono veramente divertenti e vi daremo modo di assaporare quello che diciamo attraverso la loro musica, che poi vi passeremo. Però io comincerei con una domanda così, che è quello che poi ci piace un po' a noi, no? Sapere i cazzi di chi viene qui. Perché Circuiti Aperti? Circuiti aperti, intanto, beh, circuito aperto, in ogni caso la parola chiave è l'aperto, no? Sta comunque a descrivere, come diceva già Matteo, una spazialità quasi infinita nell'ambito musicale. E come schema poi anche nel, diciamo, nella presentazione del MySpace, quello che noi cerchiamo di fare è a quello che sentiamo tutti i giorni, cioè le solite cose trite, ritrite, blocchi cubici che ti arrivano a velocità supersonica sul cranio, e ci siamo rotti i coglioni, si può dire coglioni? Sì, perfetto. Ci siamo rotti i coglioni, quindi cerchiamo di, come dire, approcciare un po' questo, ecco, questa parola aperto con quello che facciamo. Perfetto, la nostra prima domanda è andata, ragazzi, perciò chi vuole fare anche delle domande può scrivere anche direttamente su Facebook sulla chat di Mille Mics, potete insultare i circuiti aperti, qui sono ragazzi che accettano, volentieri, accettano come noi, volentieri, magari. Allora adesso Matteo ci devi raccontare esattamente come è nato il gruppo e dove avete provato le prime volte, come al solito, come tutti quanti nei garage, in qualche ripostiglio, scantinato. Sì, Dici i vostri inizi, albori. Allora, i circuiti aperti veri e propri, il gruppo che abbiamo presentato nasce, diciamo, un anno e mezzo fa. In realtà, diciamo, le idee base sono state composte da me e qui presente Michele molto tempo prima, perché comunque appunto i garage, nelle salette autogestite, quindi i vari centri sociali, o facendo jam session con altri musicisti di Roma, del Lazio, andiamo spesso insieme a musicisti di Fregene, eccetera. Quindi è nato la voglia di sperimentare e di dare in realtà un'idea ben precisa a quello che vogliamo esprimere. Ed è nato così, alla fine, alla ricerca di un tastierista, perché un appoggio reale rispetto alla musica rock, diciamo rock progressive, serviva. Ed è arrivato automaticamente anche il bassista, e lì è stato più semplice e immediato creare qualcosa. Dall'inizio è nato anche con loro a livello sperimentale, quindi liberi, senza sentire niente, senza conoscerci, così, con la musica, suonando. E poi è nato, insomma, un'amicizia, un connubio musicale, un'idea di crescere insieme, che è importante in una band quando comunque si vuole creare qualcosa a livello artistico. Secondo la concezione comunque di una band, secondo me è importante avere proprio una buona sintonia, un livello di amicizia. Tutto qua. Allora io direi di cominciarvi a farvi conoscere attraverso un vostro brano, e chi segue le nostre dirette, i nostri podcast, sa che io dei circuiti aperto passo spesso un brano che è quello che mi piace di più, che si intitola Trotto. A voi buon ascolto, siete su un'altra radio. Circuiti aperti, circuiti aperti, circuiti aperti, circuiti aperti, circuiti aperti, circuiti aperti, circuiti aperti, circuiti aperti, circuiti aperti, circuiti aperti, circuiti aperti, circuiti aperti. Abbiamo con noi Michele e Matteo, che adesso ci racconteranno un'altra storia mitologica su circuiti aperti. Ma quando siete, vi abbiamo chiesto di venire al teatro e fare jazz, sapevate di venire e non fare jazz? Direi proprio di sì, nel senso che... Che cosa avete pensato? Diteci. Guarda, il discorso è questo. Mo sembrerà fa la solita retorica, le solite... però purtroppo la situazione... in Italia è tragica, nel senso che già procurare le serate live, organizzarsi e fare... Ah, dai, con sta storia! Lo so, è difficile. Quindi che succede? Quando ti arriva una proposta e ti dicono, senti, vuoi fare 2 ore di polca napoletana, fai polca napoletana? Sì, faccio polca napoletana, io vengo e facciamo quello che facciamo. Ti diciamo sinceramente che io, Gasperino, anche e Mr. Bronte e Mr. Campo, ma soprattutto noi due, abbiamo sperato che voi veniste a fare appunto quello che avete fatto. Diciamo che all'inizio c'era stata in prova una voglia del gruppo di poter arrangiare determinati pezzi in chiave più soft, se vogliamo, classic o standard jazz, come dir si vogliano. Però poi ci è venuto più lo stimolo, sai, sul palco com'è live, ci si guarda in faccia e si suona sempre più forte. Perciò vai Mr. Gaspo, mandaci un'altra traccia. Io volevo fare una domanda, posso? Dovremmo fare le domande, non so, un domandiere. Io la domanda che vorrei porre invece è questa. E stiamo parlando del prog, no? E l'Italia è stata un fonte inesauribile su questo aspetto. Poi siamo entrati negli anni 90, 2000 e questo genere musicale si è un po' arenato, si è fermato, non si è avuto un salto oltre quello che si era sentito, infatti, no? Poi avrei anche una cosa. E a parte alcuni gruppi attuali che magari vanno un po' più per la maggiore, che potremmo annoverare gli After Hours, o nell'underground potremmo, come prima abbiamo passato i nostri amici meccanici Butterfly della Sicilia, che fanno un ottimo prog, potremmo dire che qui a Roma ci siete voi e non solo. Che senso ha oggi, no? Presentare un genere musicale che in qualche modo sembrerebbe aver già detto tutto. Avete intenzione di dire qualcosa di nuovo o semplicemente perché il genere con cui riuscite maggiormente a esprimervi come persone, come gruppo, come artisti e quant'altro? Allora, la prima risposta che ti do è perché no, nel senso, la musica che a noi ci ispira, e parlo personalmente per me e per Matteo, perché come dicevo prima siamo amici di lunga data, quindi proprio siamo in simbiosi musicalmente, ma anche per il resto della band, ascoltiamo comunque un genere di musica progressive e ultimamente anche un sacco di jazz legato molto al rock progressive, non so, Redan, Two Forever, a volte ci mettiamo Larry Coryell o non so, i Weather Report, insomma tutto questo genere musicale molto eclettico, se possiamo dire. E quindi qual è il discorso? È cercare di riuscire a captare il meglio di quello che è uscito fuori negli anni 70, alla fine degli anni 70, e lavorare magari un pochino su quello che può essere il pop, o non so, un po' più degli anni 80 e 90, un po' più contemporanei, se vogliamo dire. È solo che non è semplice per niente. Allora, come dicevo prima, io sono un amante di questo genere musicale, quindi cioè, potremmo parlare gruppi stranieri italiani e staremmo qui le ore a parlare, anche io avevo un gruppo prog, però è inutile parlare degli altri, no? Cioè, esatto. mi piace invece capire alcune cose che ho voi davanti e le voglio sapere da voi. Ad esempio, avete intenzione di fermarvi qui come numero di componenti della band, o avete intenzione di ampliarvi, magari pensate a qualche aggiunta, tipo un violino, che cacchio ne so, un altro strumento? Questo io lo sto buttando lì perché insomma poi non faccio parte della band, o una voce, potrebbe anche starci, perché su alcune parti secondo me un cantato non ci starebbe male, però voglio dire, ripeto, vi ho ascoltato attentamente, quindi... mi piacete, insomma, mi piacerebbe capire qual è il percorso da qui, no? In poi, sì, cioè, quali sono le idee? Progetti futuri. Idee. No, progetti futuri ci arriverò perché. Ah, ok, idee così, insomma. Idee, nel senso, cioè, sai, tra quattro amici, che stiamo a fare? Ci aggiungiamo una voce. Okay. Giusto, il discorso qual è? È che oggigiorno, se vuoi vendere, se vuoi proporti commercialmente, hai bisogno di un frontman. Questo frontman deve essere, dico deve perché poi non deve in realtà essere, un cantante. Invece devi mettere sta figura lì davanti che canta, fa la solosca figura e, come dire, porta avanti tutto il resto della band. Però attenzione, il cantato nel progressive, il cantante che intendo io, diventa uno strumento. Sì, non è il cantato, certo, da pop che sta lì, fa più strumenti. No, no, non stavo dicendo che certo, tipo di. Voglio dire, Peter Gabriel nei Genesis era uno strumento. Mm-hmm, ok. Il cantante degli After Hours ha una voce che è uno strumento. Il banco. Sì, sì, cioè, no, qualsiasi gruppo ti viene in mente, no? E capire se sta bene con voi, forse, no? Sì, ma adesso, al di là delle qualità tecniche del cantante o della capacità, magari, non so, di tirare fuori testi particolarmente impegnativi, come faceva lo stesso Gabriel, no? Nel senso, i Genesis colpivano perché avevano questo aspetto teatrale, no? Era proprio uno spettacolo teatrale che andava in scena sul palco musicalmente. Quindi lui era un poeta, un attore, era tutto. E io non sto dicendo che noi dobbiamo, come dire, adeguarci, quindi fare cose commerciali, trovare la figura che sta bene lì, che qualsiasi cosa fa va bene. No, bisogna trovare, come dici tu, la figura giusta e le qualità giuste che appunto deve poi portare nel gruppo. Detto ciò, però, la domanda che ci viene da fare, ma siamo sicuri che in realtà a noi ci serve un cantante? Perché, pensandoci bene, fiati, ecco, un sassofono sarebbe fondamentale, io credo, nella nostra band. Prima che prenda il microfono lui e fa, io c'avevo un gruppo e suonavo il sassofono, eccetera, levo il microfono a lui, perché è meglio, sennò poi ricomincia con la storia che ha cominciato a suonare il sassofono, perché se non è scandale, perché ci stava il sassofono. Allora, ritorniamo alla domanda seria, poi magari passiamo un pezzo. Nel progressive i fiati, a differenza del jazz, sono stati sostituiti appunto con le tastiere o coi synth e quant'altro. Poi vengono utilizzati perché tu stesso, no, ricordavi Peter Gabriel usava il flauto traverso, quindi è un fiato. Come no? Ci potrebbe star bene, ma anche un violino, che io sono un amante delle cose un po' così, figurati. Sì, è stato sperimentato parecchio nel progressive e bello è proprio questo, no? Sì, ma la mia curiosità era altro, cioè voi vi sentite appagati così in quattro o sentite l'esigenza che subentri qualcuno, che dia una spinta maggiore, che porti delle innovazioni? Non lo so, cioè sto buttando lì perché voi mi potreste anche rispondere, noi stiamo bene così. E voi, la domanda che fanno a noi spesso è: un anno e passa che avete aperto la radio, ma siete rimasti voi quattro? E rispondiamo sistematicamente sì, perché se entra qualcun altro rompe un'armonia che si è creata, fondamentalmente quattro amici che fanno radio, no? Quindi siamo consapevoli di questo e vogliamo essere noi quattro, non vogliamo nessun altro, no? Potrebbe essere così anche per voi, no? Sì, è vero, noi partiamo dalla base, siamo quattro amici che suoniamo insieme e abbiamo provato a inserire i cantanti, non c'è mai stata, diciamo, una risposta seria, diciamo, pragmatica sul campo, ovvero prendi e cantami, seguimi con questa linea melodica, o piuttosto pensiamo insieme a un testo da proporre su questa fase, diciamo, del brano, perché magari un brano che proponiamo può durare dai 3 minuti, magari alcuni durano 7 minuti, come appunto veniva spesso, si classifica il prog perché durano a suite. Noi non intendiamo dare una caratteristica poi anche di box alla musica che suoniamo, nel senso progressive sì, intendiamo dare noi uno slancio ideale a questo tipo di musica che proponiamo, nel senso una musica aperta già dal nome, dal titolo della band, da quello che vogliamo suonare. Non è qualcosa che si riferisce sia troppo al classico, quindi come veniva preso il progressive negli anni 70, vediamo Yes, Emerson, Lake e Palmer, piuttosto che Crimson e via dicendo, che prendevano molto dallo stile classico. Noi piuttosto abbiamo pensato a una sonorità, una ricerca di qualcosa che possa influenzare i giovani di oggi, gli ascoltatori di adesso, e che però si ricordino qual è effettivamente la musica che può essere suonata, perché noi vogliamo suonare, la sappiamo suonare live, non è musica da computer, non è qualcosa che viene dalle macchine. Questa è una cosa che molto si è persa nella cultura giovanile, secondo me. Matteo, ti ricordi quando mi hai mandato le tracce, no? Io ho avuto sempre un problema. La quinta traccia, il titolo, qual è? La quinta traccia è Punto, linea e superficie. E da dove lo dovrei capire io questa cosa, scusami? È un puntino, una linea e praticamente una sorta di parentesi, cioè che sta a delineare un qualcosa di che racchiude, cioè un semice, un circuito aperto, esatto. Poi quando siamo fuori onda mi dici che cosa avete preso prima di dare il titolo. È un doppio senso. Mettiamo in concreto quello che abbiamo detto, facciamo sentire a tutti chi sono i circuiti aperti, appunto, con punto, linea e superficie. Giusto? Ho detto giusto? Ho detto giusto? Ho detto giusto? Ho detto giusto? Ho detto giusto? Ho detto giusto? Ho detto giusto? Circuiti aperti su un'altra Radio Roma. Bella cosa, eh? Allora, una cosa importante che voi sappiate prima che andiamo avanti con la nostra intervista è che voi, se siete seduti dall'altra parte di questo tavolo radiofonico, è perché fondamentalmente il progetto dell'altra Radio Roma è quello di invitare e trattare solo artisti che piacciono a noi. E loro ci sono piaciuti e abbiamo detto: ma perché non li intervistiamo? Te lo ricordi? È anche un nostro obiettivo quello di non piacere a RTL o ma questo vi fa onore, cioè voglio dire, se mi parlavi di altre radio dicevo cazzo sì, vai. Però c'è un'altra musica, un'altra radio. Che poi bisognerebbe ringraziare Super Maurone, Er Maurone, che è stato il link tra me e Matteo, perché lui mi disse: io conosco un gruppo che suona Ciglia, i ragazzi, un amico mio, bravi, si chiama Circuiti Aperti, e mi ha dato il contatto di Matteo. Poi si è sentito con Matteo, lui ha mandato le tracce e contemporaneamente poi hanno sentito anche Gasperino e gli ha mandato le tracce pure a Gasperino. Alla fine ho detto famoli suonare a questi, che questi ci stanno andando. Così è questa la bellezza poi. Sì, poi alla fine se anche Facebook è usato in un modo che funziona, bisogna usarlo. perché sennò si conosce. Sì, è vero, noi eravamo un po' scettici a livello di uso di, dei social network o della mail, eccetera. Però in effetti, cioè, nella serie ci piace più il passaparola, evidentemente, però si rende molto più utile effettivamente invece il discorso musica, libertà di ascolto, quindi computer, quindi musica dappertutto. Evidentemente questo per noi era importante, eravamo proprio fomentati, volevamo suonare, quindi abbiamo anche rotto i coglioni anche a voi, regà, scusate. No, ma sai che c'è, lo sai, quello che la premessa che volevo mettere era proprio questa. Noi, voi avete scritto a questa radio, e se il 50% della radio, perché siamo quattro, se due hanno detto fighi questi senza essersi ascoltati, perché noi non è che stiamo sempre a dirci hai sentito sto gruppo, ma ha scritto sto gruppo, eccetera. Ormai starete in simbiosi pure voi, insomma. No, no, ma no, cioè, poi sotto aspetti musicali a volte siamo differenti per alcune cose, però poi quando riconosciamo su dei generi, no? Se parliamo dei generi, dobbiamo esprimere il nostro giudizio, convergiamo. È stato anche in questo caso, tant'è vero che io ero entrato in contatto con lui, inizialmente dovevamo fare un'intervista, poi si era parlato, a mandare i brani, abbiamo cominciato a fare delle cose, insomma, alla fine, come dicevamo prima, abbiamo detto troppo fighi questi, portiamoceli a suonare, no? Al teatro, e così è stato. Oggi siete qui perché abbiamo voglia, no? Che in qualche modo, se piace un prodotto a noi, e ripeto, noi siamo stati dei grossi consumatori di musica, siamo pieni di vinili da tutte le parti, e quindi vuol dire che in qualche modo la musica fa parte di noi. Se riteniamo un progetto valido, cerchiamo di spingerlo nel nostro limite, nelle nostre capacità, nelle nostre possibilità. La domanda successiva è la seguente: se tu parlavi, no, prima della difficoltà, no, di trovare degli spazi dove potete esprimere se stessi, perché poi l'arte non è nient'altro che essere se stessi, no? Qual è l'importanza di poter creare, no? Cioè, parlavamo di internet, di creare una comunità che possa in qualche modo racchiudere sia gli artisti che chi usufruisce della musica, la possibilità di trovare degli spazi, no? non voglio dire dei rave, però degli spazi dove poter fare esibire i gruppi e la gente possa andare lì in qualche modo ad ascoltarli, apprezzarli e eventualmente a seguirli, no? Il panorama politico non ci aiuta in questo. Noi nelle nostre piccole possibilità ci adoperiamo a cercare spazi, come è stato quest'inverno per il teatro. Ci sono altri progetti in ballo che nel momento in cui poi partiranno. Però a parte noi, no? A parte la voglia delle band, che bisognerebbe, perché noi un'idea ce l'abbiamo, che bisognerebbe inventare, che bisognerebbe, cioè, qual è il consiglio di un artista, no? Chi sta dall'altra parte del palco? Vai. Allora, innanzitutto il primo consiglio che mi viene da dare non è tanto quello di artista, ma tanto di essere umano, nel senso che limitarsi e ad ascoltare magari la musica che ci viene sparata in faccia tutti i giorni dai canali televisivi, della radio, che per carità sono momenti piacevoli, però è una realtà fittizia, non è la realtà musicale vera. Quindi prima di tutto abbattere questa barriera, cioè andare avanti, scoprire e non limitarsi. Seconda cosa, andare a ascoltare musica dal vivo. Vaffanculo discoteche, vaffanculo rave, prendi i tuoi amici, prendi la tua ragazza, te ne vai ad ascoltare un bel concerto dal vivo, 4-5 gruppi, lo fai una volta a settimana e ti posso garantire che, a parte il divertimento, ti fai un bagaglio culturale. Niente, detto questo, poi sicuramente internet, sì. Guarda, noi non è che abbiamo aperto la radio, abbiamo cominciato a costruire eventi perché ci fregava qualcosa dei gruppi e perché noi non avevamo i soldi per pagare il biglietto. Allora organizzavamo i gruppi, ce li sentivamo a gratis, con la scusa che c'avevamo la radio. Indubbia, a parte quello poi. È evidente, infatti, che deve rinascere la voglia di movimento, di ragazzi che, insomma, gioiscono per sentire musica, piuttosto che solo all'evento organizzato con lo sponsor della Coca-Cola, di MTV. Allora tutti vanno a sentire, per carità, After Hours, eccetera, gruppi molto rispettabili, anche, cioè, per carità, secondo me due album sono fatti molto bene, però comunque sia c'è, cioè, un canale un po' troppo ottuso e anche gli ascoltatori evidentemente fanno fatica a conoscere i canali differenti per apprezzare anche altri tipi di musica. Come dicevamo, l'underground, ci sono un sacco di gruppi romani simili al nostro che comunque fanno fatica a emergere, o gruppi che suonano da 10 anni insieme, però magari non riescono, non trovano la voglia o il canale giusto. Quello è un problema che effettivamente chiamiamo il sistema, o comunque la cultura generale del paese, perché poi quello, come diceva Michele, è un problema culturale. Cioè, se non si sblocca questo, allora evidentemente a livello, chiamiamolo, burocratico, legislativo, eccetera, non si sbloccano anche altre cose, o finanziamenti di privati che vogliono aprire un altro bell'auditorium per la musica, per i giovani, dove band emergenti si possono esibire una volta a settimana pagando una sottoscrizione di pochi euro per finanziare un progetto. Cioè, questo deve nascere dal basso, secondo noi. Ok, proviamo a fare un paio di domande veloci, cioè domanda veloce, risposta veloce. Io poi passo il microfono a Cocotte, che farà una domanda veloce, risposta veloce, e poi passiamo un altro pezzo, perché sennò poi non abbiamo modo di farvi ascoltare completamente come vorremmo. La domanda rapida e veloce che ti voglio porre è questa qui. Noi pensiamo che qualsiasi gruppo non deve starsi a sforzare a trovare il posto dove suonare, a sbattersi, a portare le persone all'interno, eccetera. Noi vorremmo arrivare a creare uno spazio dove la gente viene, suona, si esibisce, poi se c'è sta gente bene, se non c'è sta, se c'è guadagno bene, se non c'è sta non fa nulla. L'importante è creare degli spazi dove i giovani, e non solo, abbiano degli spazi necessari. E la domanda è la seguente: pensate che siamo dei pazzi? O forse, unendo quelle che sono, no, le possibilità di una radio, degli artisti e di chi ascolta tutto questo mondo, non possa essere veramente la via di uscita di tutto questo? Allora, questo è un punto veramente importante, e io credo che l'esperienza personale che sto facendo in questo momento con voi sicuramente è positivissima, quindi la radio è importantissima, perché è il canale che sicuramente può, come dire, diffondere progetti musicali, poi che non siano anche musicali, comunque a una velocità allucinante, insomma possono vederlo e sentirlo persone dall'altra parte del mondo, quindi sicuramente è un canale utilissimo, valido assolutamente. Il discorso qual è? E poi quando ci sta il lucro dietro questo, perché poi un sacco di radio fanno questo lavoro, però poi ecco, subentrano i soldi, sempre soldi. Però anche la cosa che dici tu, no? Nel senso, trovare spazi dove comunque far esibire la gente, a prescindere da poi quanto è il pubblico, chi se ne frega, nel senso che bisogna pure abbattere questa concezione del denaro, dei soldi, farsi pagare ogni volta, no? Sì, del fatto che ti proponi per andare a suonare il locale, chi hai davanti è chi si preoccupa di più di quante birre vuole vendere, piuttosto di che intrattenimento proporre, insomma. Sempre tutto quanto legato a un fatto proprio di cultura e di sensibilità, tutto lì. Sì, soprattutto le culture, anche se non sono tutti quanti i locali che ci sono qua a Roma, no? No, indubbiamente. Bisogna fare un distinguo, insomma. Prego, ditemi. Guarda, infatti volevo dire, a proposito, mi ha ricordato Matteo poi dopo, e suoneremo... Mi ritaraccio pure. Ecco, c'hai ragione pure tu. E dicevo, guarda, ne approfitto perché il venerdì, venerdì, okay. 29, se non venerdì sbaglio, 29 aprile, suoniamo su un locale della Nomentana. E Matteo, ricordami un po' il nome, dimmi un po', vai. Il locale è il Fullick, al vicolo della Fontana numero 1, e suoniamo per le ore 22, apriranno un'altra band prog, quindi Linea Teorica, e noi faremo gli headliner, i circuiti aperti, alla grande, regà. Da paura, ci vediamo paura. Lì. Sulla l'ingresso, la cosa figa, regà, è che l'ingresso è 3 euro, sottoscrizione, vanno tutti in beneficenza a una onlus che finanzia la musica per le donne nell'Africa subsahariana. Quindi, insomma, quindi se potete paura, anche sparci la voce, voglia, ci farebbe piacere, perché è un evento che è nato pochissimo, così, al volo. Abbiamo dato la nostra disponibilità subito, anche perché si tratta proprio di un'altra band prog che ci fa da spalla, e un bel locale, ragazzi, ci divertiremo. Mandaci il link, i soliti indirizzi, e noi sponsorizzeremo per quanto è possibile attraverso i nostri Facebook, MySpace, Muchas gracias. Mandassimo, mezzo a svansvera. Domanda veloce. Allora, domanda velocissima di Mr. Cocket, velocissima. Allora, tutte e due mi devo rispondere. Chi è che arriva in saletta nel posto dove suonate con l'idea, detto entro, io dico, mo senti sto pezzo, famolo nuovo. Cioè, chi è che arriva con le idee e poi gli è state dietro, che ne so, arriva Matteo e dice, guarda, sentite sto pezzo, famoci un pezzo sopra e ci lavorate. Guarda, prima domanda, vai. Poi seconda, con che gruppo vorreste suonare dal vivo? Allora, io ti rispondo la prima e poi Matteo ti risponde la seconda, molto veloce. Allora, non è per offesa nei confronti dei nostri due, come dire, commilitoni, tra parentesi, perché vanno bene dell'anima e sono... Soprattutto Enrico, il tastierista, è una mente geniale, nel senso che poi sintetizza molto bene le idee. Il discorso è che le idee le portiamo io e Matteo la maggior parte delle volte, e anche perché poi, come diceva prima, il progetto inizialmente è nato da me e lui. Quindi che succede? Abbiamo 4-5 pezzi lì in sospeso, che facciamo, regà? Entriamo in sala, esatto. Esatto, quindi entri in sala, regà, abbiamo queste idee, tutti che lavorano, e poi è uscito quello che è uscito. Anche perché poi, nulla per Enrico, insomma, ricordo che Maieutica e P3 sono le tracce comunque fatte, composte da Enrico Lupo. Matteo, ti passo il microfono, rispondi alla seconda domanda. Oddio, la band. A me Michele ci passerebbe tanto suonare con gli Yes. Personalmente, perché ancora sono in gamba, raga. Ancora più sono basso, in più gamba. Bassa, più bassi? Più bassi. Più bassi di Yes. Perché se voi suonate con gli Yes, spieghiamoci, voi non starete più qui a un'altra radio Roma a fare interviste, no, capisci? Beh, infatti è stata più bassi. Al secondo posto? Madonna, al secondo posto. Oh, sì, a parte PFM, però una cosa. Ah! Mi piacerebbe suonare con qualche musicista degli Area rimasto. Degli Area. Gli Area, sì, sì, sicuramente loro. Sì, perché... Ti ricordi quando si ascoltavamo in spiaggia? Mamma mia. Vabbè, allora avete... Grazie per questa domanda, comunque. Mi sono. Cioè, di cuore la risposta, veramente. Maieutica, abbiamo detto prima, giusto? Che ha composto Enrico. Enrico Lupo, il tastierista, sì. Sì, ok. E noi lo famo sentire qui su un'altra Radio Roma, Radio Roma. Allora, rieccoci di nuovo in studio, ci stavamo rilassando con i nostri amici dei Circuiti Aperti. Volevo farvi una domanda un po' più personale, se vogliamo, artistica. Allora, abbiamo detto, i pezzi li scrivete, li pensate diversamente, insomma, a chi ha l'ispirazione e poi gli altri si agganciano, ma quando state lì, no, che state, nasce un pezzo e sta per... evolversi in brano, in canzone, e ognuno, ogni artista della band porta il suo estro creativo. Quando arrivate al termine del pezzo, cioè che avete finito, no? vi sentite soddisfatti oppure dite qui manca sempre qualcosa, vorremmo cambiare, oppure nel momento in cui lo suonate, quindi di fronte agli altri, sentite di aver raggiunto quello che era l'idea originaria del pezzo oppure no? Domanda tosta alle 11:05, a lei. Allora, bella domanda. La maggior parte delle volte succede che tu congegni un pezzo in un modo, lo elabori, finisci il pezzo ed è completamente diverso dal, diciamo, da come l'avevi concepito inizialmente. E questa trovo una cosa meravigliosa, perché vuol dire che c'è una continua evoluzione, no? Nel momento in cui poi componi, suoni, quello che è. E quindi è come se tu vedi un pargoletto che nasce, cresce, mette i primi passi, poi il primo pelazzo, la pubertà, e poi diventa quello che diventa. Succede pure spesso magari che arrivi a fine pezzo e dici, beh, cavolo, insomma, sto passaggio è un po' moscio, torniamo indietro, rifacciamo questo e quell'altro, e a volte addirittura che i pezzi vediamo che non vengono, li prendi e li butti proprio nel cestino. E niente, poi è una cosa molto emozionale, quindi dipende come stai. Ecco, ad esempio un pezzo come Maieutica, adesso ne approfitto perché l'avete messo poc'anzi. Maieutica è un pezzo che ogni volta in sala, ogni volta che lo suoniamo, viene sempre diverso. Perché è il pezzo più emozionale che abbiamo, ogni volta dipende come stai, lo suoni in un modo e altri in un altro modo. Quello che abbiamo fatto con il pianoforte al concerto, io ricordo. Sì, infatti spesso comunque in sala a volte c'è qualcuno che si blocca e inserisce magari una nuova idea o un nuovo suono. La cosa più bella evidentemente è cresce insieme, cioè quello che ci interessa di più è trovare l'armonia, quella più bella per tutti noi, cioè la bellezza nell'espressione, tutto là, che si traduce poi nel liberarci, piuttosto che un assolo messo o non messo. È importante anche guardare molto alle note. Quello che cerchiamo di fare ultimamente è stare attenti a ogni nota suonata, dalla batteria al piano. Cerchiamo di raffinarci a questo punto di vista, insomma. Non è tanto che suoniamo insieme e verranno delle belle. Bene, posso dire un'ultima cosa, no? Una cosa che ci ha colpito un pochino a me e a Cocot vedendovi suonare insieme è stata, sì, questa omogeneità sonora data da un frutto di esperienza diversa da ogni strumento, che però messo insieme dava una coralità, ma la coralità più particolare era, chiudendo gli occhi e ascoltandovi, sentire delle persone che sapevano quello che stavano facendo, aprendo gli occhi vedere una spaccatura del palco, e mi spiego. La spaccatura era data dall'età. A sinistra c'erano gli Anta e a destra c'erano gli Enta. Stirecchiacci. Cioè, come mai? La domanda è questa, no? Vai, vai. Visto che abbiamo iniziato chiedendo come vi siete conosciuti, siamo stati soft, ma andiamo, come si dice a Roma, a menà. Come mai, no? Due quarantenni, possiamo dirlo? No, hanno 32 e 33 anni. Enrico? Si portano male. Vabbè, 34 e voi? 25. Sì. Vabbè, insomma, abbiamo 10 anni di differenza, che yes, comunque non sono pochi. Te lo dice un ventenne. Dai, così. Quindi, cioè, come mai, no? Questa situazione, cioè, voglio dire, quando poi parlavamo fuori onda, eccetera, loro sono quelli che frenano un pochino e voi siete quelli un pochino più entusiasti, ma questo fa parte dell'età poi, no? Cioè, voi fate parte di un'età dove vi gasate più facilmente, ci credete più, loro con l'esperienza dicono, raga, andiamoci piano, perché? Allora, però vedervi insieme, no? Cioè, al di là del il contrasto era dato, no? Dal connubio musicale, e nel vedervi come figure c'era un contrasto che però poi alla fine, cioè, era solo un contrasto nel vedervi, non nel sentirvi, ok? Questo che voglio, esatto, cioè, voglio dire, c'era questa differenza che poi non c'era, no? Quindi non so nemmeno qual è la domanda, fatela da solo. Fai belle domande. bravo. No, il discorso qual è? Sì, è vero, sti 10 anni si fanno sentire. Infatti molte volte magari, sai, chiami la settimana prima, oh ragazzi, abbiamo un concerto, su, dai, andiamo in sala, facciamo 2 ore di prova, cotta e mangiata. No, sono stanco, regà, io ho finito oggi una di lavoro, domani c'ho un colloquio, ed è qua, e su, e sono stanco, la ragazza. Quindi noi ammortizziamo molto questo e lo capiamo, cioè, a una certa età, insomma, c'è anche altre responsabilità. Hai una visione del mondo diversa, vero, magari meno grintosa e un po' più saggia, però ciò comunque non toglie il fatto che seguire lo stesso progetto tutti insieme poi abbatte un pochino queste cose, ecco, le abbatte. È un po' difficile, però ce se la fa. Allora penso che noi in questo istante siamo arrivati alla fatidica domanda che chiude la puntata, che non ha né una risposta né una domanda, cioè quella di farvi una domanda e darvi la risposta. A posto. Questa è la domanda che questa sera sta quasi chiudendo un'altra intervista, episodio 2. No, questa è la domanda che rimane così nel dimenticatoio, che significa che bisogna arrivare alla fine, che... Voglio salutare Michele e Matteo per questa serata passata insieme a noi. Speriamo di risentirli dal vivo, ripeto, il 29 aprile. E risentiremo dal vivo. E comunque un saluto a tutti quanti e scriveteci su un'altraradioroma.blogspot.com, dove apparirà il podcast di questa intervista. Poi lo faremo e lo diffonderemo. Mister Coco, a te vi saluto e passa il microfono a Mister Gasperino. Prima di passare i saluti, lascio il microfono 2 minuti a voi. Per dire quello che volete, cioè avete uno spazio libero. Voi quando mi facevate all'inizio, posso dire questo, ma qui potete dire quello che volete. Vabbè raga, prima cosa, via i freni, imbracciate una chitarra, 2 bacchette, 2 pezzi di legno, bravo, un tamburello, vedete di fare un po' di caciara, poi metteteci un po' di cuore, tanto cuore, un po' di cervello, perché comunque nella musica serve anche quello. Ascoltate di tanta roba, non quello che vi provirano davanti allo schermo. Cercate sul PC, fatevi consigliare ad amici, sentite le radio online. C'è tanta gente che suona, raga, fatevi sentire pure voi, forza. Noi facciamo questo appello affinché, insomma, gente come noi, ragazzi, ragazze che suonano, che si vogliono far sentire. Questa è la cosa più importante, creare insieme qualcosa, insomma, farsi sentire sempre di più. La voglia, secondo noi la cosa più importante è la voglia. Ecco perché poi 10 anni di differenza non si fanno sentire, perché basta suonare, metteci col cuore e la musica viene fuori, raga. Grazie delle domande del tempo concesso. Salutiamo anche Enrico e il bassista si chiama? Filippo. E tu vuoi dire qualcosa? Ti è sufficiente quello che ha detto Matteo? È sufficientissimo quello che ha detto Matteo, sono d'accordo. Allora facciamo così. Scambio il saluto con voi. Facciamo così. Allora io, prima del saluto proprio quello terminale, ti lascio questa possibilità. Fai il disc jockey per questa sera e lancia un brano dei Circuiti Aperti. Buonasera a tutti, su un'altra radio stasera. Proponiamo Corrida, un brano dei Circuiti Aperti. Thank you. Che figata questa sera, ragazzi, che figata, ci siamo divertiti un mondo, ci siamo divertiti veramente tanto con gli amici dei circuiti aperti qui, che vi consiglio, andate lì a cercare, rompetegli i coglioni e fatevi dare la loro musica, perché meritano veramente. Detto questo, ringraziamo i nostri ascoltatori questa sera per averci ascoltato e sopportato. Do la buonanotte con quale jingle? Non c'ho tanti jingle tranne quello che cercavo, questo. Io ho paura, sono malato, paura, sono malato, Natra Radio Roma. The radio of the Misters. Natra Radio Roma. The Misters Radio. Yo Natra Radio Roma. Roma. The Radio of the Mister. The Radio of the Mister. The Misters. Radios. Natra Radio Roma. Radio. Radio Roma. The Radio of the Roma. The Radio of the Mister. Yo Natra Radio Roma. La radio dei quattro. L'unica radio che manda musica a Spansvera. Yo The Radio of the Mister. Natra Radio Roma. Natra Radio Roma. The Radio of the Misters.